Friuli nel mondo. 165esima trasmissione dedicata agli emigrati. Motivi friulani. Il complesso tipico diretto da Bruno Degano eseguirà per voi, cari amici radioascoltatori, alcuni motivi friulani che, nell'esprimere l'anima della nostra terra, vi riporteranno al ricordo nostalgico delle semplici e spensierate sagre nostrane, ma soprattutto al ricordo dei cari luoghi che da pochi o da molti anni avete forzatamente lasciati. Possano questi suoni avere la forza, come le pietre dei nostri focolars, di far sentire sempre più vicini a voi il Friuli ed i friulani. Ascoltate ora i seguenti motivi. Duch mi clamin cont di Degano, Celigrie e Ievendeme di Garzoni, La Stagliare di Pozzo, il motivo popolare Tiriti su Ninine, La Baladine di Garzoni, ed infine Furlana 900 di Degano. Thank you. Thank you. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.